I colori dell'anima, buonasera, buon lunedì 29 aprile 2013, sono le 21 e qualche minuto di troppo e siamo in diretta su Radio Alma, www.radioalma.eu per chi ci ascolta in diretta streaming, mentre invece per chi ci ascolta da Bruxelles è in modulazione di frequenza 101.9. Io sono Giampaolo e stasera ho una missione da compiere. Vi devo condurre nel mitico mondo degli anni Ottanta, questi favolosi anni Ottanta che tutti ricordano, che sono pieni così di souvenir, di ricordi, di canzoni, di musiche, di programmi televisivi. Ovviamente però in questa missione non sarò da solo. Con me al mio fianco a sostenermi c'è come sempre il nostro validissimo condottiero di regia, il maestro Angelo Gregorio. Buonasera! Questa sera leggermente infortunato alle corde vocali, ci allieterà con questa vocina, diciamo, da... Cos'è che mi fai? Un falsetto stasera, Angelo? Falsetto per non sforzare le corde vocali! Fantastico! E allora, se siete pronti per buttarvi in questa avventura, durante questa ora cercheremo un po' di ripercorrere quello che è stato un po' il filo conduttore degli anni Ottanta. Chiaramente sappiamo che c'è veramente un sacco di roba, dalla musica al cinema, dalla storia. È stato un decennio veramente fantastico. Alcuni di noi, come me, come nel mio caso, per esempio, lo hanno vissuto nell'infanzia. Altri di voi che magari sono un po' più nonnetti, lo hanno vissuto in adolescenza, lo hanno vissuto in una fase un po' così più matura. Però sicuramente ognuno di voi avrà qualcosa da ricordare degli anni Ottanta, di questo periodo fantastico che ha regalato alla storia veramente tante tante cose importanti, tante cose degne di nota. Questa sera, accanto a me, nello studio di Radio Alma, c'è un assistente speciale. Ciao Rossella! Ciao Giampaolo, buonasera a tutti ragazzi! Rossella, voi probabilmente la ricorderete perché è stata nostra ospite qualche puntata fa e sapete che da un po' di tempo sta qui, bazzica all'interno del nostro studio perché sta studiando. Sì, purtroppo io voglio studiare, voglio imparare da questi ragazzi di Radio Alma e sono qui a fare uno stage con loro e quindi sono contenta di essere il loro braccio destro questa sera. Yeah. E quindi, signore e signori, adesso anche noi di Radio Alma, anche noi dei colori dell'anima, abbiamo la nostra stagista. Olle! Benissimo, e quindi mentre diciamo vogliamo farvi crescere queste curiosità, perché io immagino già ognuno di voi che sta lì davanti la radio, davanti il computer a dire ma chissà che cosa ci faranno ascoltare stasera, di che cosa parleranno, chissà se si ricorderanno quel mio cartone animato preferito, quella trasmissione che guardavo tutte le sere, tutti i weekend in televisione. Beh, allora a questo punto è spontaneo per me dirvi ragazzi, noi aspettiamo veramente quelli che sono i vostri ricordi. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook, mandateci messaggi, contattateci. Rossella, dov'è, a quali numeri, come possono fare i nostri ascoltatori per scriverci quello che rappresentano per loro gli anni Ottanta? Bene, allora vi ricordo i numeri da fare. Allora, per contattarci dovete o telefonare al numero fisso 0234 52656, oppure mandate un SMS al numero di Angelo 0471407804. Ripeto, ripetiamo. Sono emozionata, ragazzi. 0471407804. O ancora, ragazzi, fatevi sentire su Facebook, sulla pagina www.facebook.com Angelo e Carla on air. Benissimo Rossella, e allora visto che siamo lanciatissimi e siamo partiti, avete anche i nostri recapiti per farci sapere i vostri anni Ottanta. Io vi lancio subito la sigla di un programma che ha fatto veramente storia nella televisione italiana e che è indietro tutta, e molti di voi ricorderanno, soprattutto quelli più grandetti, e la sigla è la famosissima Cacao Meravigliao, cantata dalla Cortellesi. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. I colori dell'anima su Radio Alma vi presenta. Presenta tutta la musica italiana live a Bruxelles. Paolo Loveri Quartet, con Paolo Loveri alla chitarra, Marco Sannini alla tromba, Tonino De Sensi al basso e Bruno Castellucci alla batteria, suoneranno per voi nel mese di giugno, il 6 al Music Village alle 20.30, il 7 al Blue Flamingo Jazz Festival alle 20.30 a Molenbeek, brani originali di Loveri e Sannini e standard jazz. Paolo Loveri, Marco Sannini, Tonino De Sensi, Bruno Castellucci, il 6 giugno e il 7 giugno a Bruxelles. Tutta la musica italiana live a Bruxelles. E Filomena, i Riso Patate and Folk suoneranno al ristorante Belli e Buoni il 27 giugno alle 19, Avenue de Tervuren 36. Musica italiana folk al 100% con uno spettacolo assicurato, i Riso Patate and Folk, il 27 giugno alle 19 al ristorante Belli e Buoni. Faccia la festa al lupo al tiro. Colori dell'anima, tutta la musica italiana live a Bruxelles. Colori dell'anima. E rieccoci in diretta con i colori dell'anima. Io sono sempre Giampaolo. Con me in studio stasera abbiamo promosso Rossella alle nuove tecnologie, comunicazioni e, e quant'altro può servire. In regia c'è sempre il nostro mitico Angelo Vigorio. Stasera, eccolo là, lo sentite stasera con la sua voce meravigliosa. Stasera non c'è Carla con noi, i nostri ascoltatori lo avranno notato. Carla, torna presto, ci manchi, un bacione. Mua. E allora, ritorniamo su quelli che sono, su quello che è il tema della nostra puntata di oggi, i fantastici anni 80. E già, ragazzi, quello che vi posso dire è che sta già arrivando una pioggia di commenti, di il messaggi. Il primo SMS. Eccolo. Giampaolo, che bella voce che hai alla radio, bella la canzone che avete passato, torno ai miei 20 anni. Un bacione, saluti per tutti dalla zia Maria. Ciao zia Maria! Ciao zia Maria! Eccola! Poi, tra l'altro, è bella canzone davvero, perché Cacao Meravigliao, guarda, a me ricorda un sacco di cose, Rossella. Mi ricorda soprattutto, per me, quando ero piccolo, così, quando ero fino all'età della mia adolescenza, Cacao Meravigliao per me era la sigla del carnevale. Eh sì, è vero. Perché non c'era un carnevale che si rispettasse, degno di tale nome, che a un certo punto non facesse partire là questa Cacao Meravigliao e la gente che ballava, che impazzita. Il solito trenino brasiliano. Il trenino brasiliano. Bellissimo. È vero, è vero. Stavo anche pensando che il Cacao Meravigliao mi ricorda moltissimo invece a me l'Euro Chocolate a Perugia, che è praticamente un festival, il festival della cioccolata che viene fatto. Attentato ai golosoni qua. Attentato. Attenzione. Viene fatta una volta all'anno a Perugia nel mese di ottobre, e quindi ci sono questi autoparlanti in tutto il centro storico, che è un centro molto bello, in cui si ascolta proprio in ripetizione questa canzone Cacao Meravigliao, e quindi vedi questo Corso Vannucci che pullula di gente che si abbuffa in cioccolata, che mangia cioccolata e balla, balla. È veramente bellissimi ricordi. Quindi sì, è una canzone allegra e proprio pimpante, come pimpanti erano gli anni 80 in fondo, no? Eh sì. Quindi io immagino queste scene nel Corso di Perugia con la gente che andava in giro, chiaramente poi andavi a dormire e continuavi a cantare. Ti svegliavi la mattina, era un accompagnamento costante. È uno di quei motivetti che ti entra in testa, non se ne va più, una cosa terrificante a volte, però bei ricordi. Ma gli anni 80 si hanno regalato tante di queste chicche, soprattutto la musica elettronica. Ricordiamo che gli anni 80 hanno dato praticamente i natali a tantissimi big della musica cosiddetta leggera, come Michael Jackson, per esempio. Beh, il grandissimo Michael degli anni 80. Secondo me dal punto di vista musicale, lui e Madonna possono essere considerati i due figli degli anni 80, e ci hanno regalato veramente della musica incredibile. Dei super pezzoni. Ricordiamo anche la nostra grandissima Raffaella Carrà, non dimentichiamola, che tra l'altro ha rifatto anche lei un bel pezzo di Cacao Meravigliao, quindi la mitica Raffaella, non ce la dimentichiamo, che è proprio un'icona degli anni Ottanta. Chi è che piace Raffaella Carrà? Ragazzi, fatevi sentire. Dai, fateci sapere, scrivete sulla nostra pagina Facebook, Angelo e Carla On Air, oppure, come sempre, telefonate in studio e raccontateci i vostri anni Ottanta. Al che numero 02 3452 656, oppure mandate un sms allo 047 1407 804. E vi ricordiamo che per tutti quelli che tra di voi, e sappiamo che siete in tanti anche se state nascosti, che ci ascoltate dall'Italia, ricordatevi di anteporre il prefisso internazionale del Belgio, che è 0032. Quindi in questo caso, se volete chiamare in studio, dovete comporre lo 0032 02 345 26 56, mentre se volete mandare un sms al quello che ormai tutti sanno essere il cellulare di Angelo, tempestiamolo di messaggi, e tempestiamo Angelo, 0032 47 1407 804. Benissimo. Allora, Rossella, c'è già qualcosa sulla pagina Facebook? Sì, c'è scritto qualcuno? Abbiamo già i primi ascoltatori fedelissimi che ci ascoltano. Tanti saluti da Antonella Cangemi, da Tiziana Genovese. Ciao Antonella, ciao Tiziana. Da Catania anche la sorella ci sta ascoltando, grandissima Claudia. Ciao Claudia, auguri, auguri. Claudia e Tiziana oggi fanno il compleanno. Infatti sì, auguri, ragazzi. Auguri, auguri, auguri. E ancora Alessio Vitelli ci saluta e ricordiamo, ecco, Alessio Vitelli, benvenuto. Medio Alessio, che ci ha cantato e suonato, magari lo dobbiamo rinvitare. Che dici, Alessio? Ci vuoi rivenire? Rossella, so che devi lanciare un pezzo adesso. Certo, volevo fare la sorpresa. Avete avuto paura? Ecco qui. Quindi, eccoci qui. Lancia Rossella la canzone del estratto di una telefonata di Nino Frassica. Ragazzi, e chi non se lo ricorda? Orgoglio Terrone. Ricordiamo dal programma Indietro Tutta. Ciao Pina, ciao Pina. Ciao tesoruccio. Vediamo quest'ultima telefonata. Pronto il telefono per i bimbi, tesoruccio, vediamo chi c'è. Pronto? Sì. Ciao Don Lurio. Come? Sei Don Lurio. Don Lurio. Come Don Lurio? Quale Don Lurio? Chi è quell'altro che risponde? Io, Frassica e Alberi. Madonna, come fate schifo. Ehi. Dica sì. Modera i termini. Che c'hai in mano, una carota? Eh? Il telefono è questo. Madonna, com'è brutto anche il telefono. Questo è il mini Frassica. Ma tu come ti chiami? Sempre sì. Io mi chiamo Pierpaolo. Quanto costi tu? Come? Quanto costi tu? Quanto costi? Che sei? Tu, quanto costi? Per 2 o 3 anni, quanto costi tu e quell'altro cretino sopra la tolda? Dica, se sia gentile. Quanto costi? Telefono, no, quanto costate tutta la trasmissione? Perché? 100 perché milioni. Vi compro. Eh? 100 io vi compro. 100, quanto? E 100 milioni al giorno. Così poco? E noi siamo economici. Allora smettetela, vita a casa mia, che lo facciamo a casa mia il quiz. Ma che sei? Ma perché, Pierpaolo, tu chi sei, di chi sei figlio? Il mio padre è un personaggio importantissimo, che se io te lo dico, tu ti caghi addosso. Ma Pierpaolo, ma che è questo linguaggio? Che poi ci dicono che siamo volgari. Io sono fatto così. Sei fatto così, ma non si dice. Io me ne frego. Tesoro. Ah. Dai tesoro. Senti, sì, è gentile, ma io piccino, tesoro. Stai bene attento come parli, perché vengo lì e ti spacco un dente. E stai dritto. No, stai dritto. Gentile, sì. Stai così, così. I bambini, stai dritto. Frassica, i bambini sono come i critici, lei deve essere gentile. Tanto, quindi, che vuoi che faccio, Pierpaolo? Che guardi, io sono un bambino. Sì. Però se mi giro. Va bene, abbiamo capito. Che devo fare, Pierpaolo? Io? Devi far vincere subito perché mi nervosisco. Ci nervosisco. Fammi una domanda. C'è il notaio, non so se tu sai. Il notaio è un amico di mio papi. Che? Il notaio è un amico intimo di mio papi. Va bene. Anzi, è anche un prezzolato. Va bene. E anche un corrotto. Il notaio? Ma che stiamo scherzando? Viene sempre la domenica a mangiare i pasticcini a casa mia, nella mia villa. Ma non dica stupidaggi. Ma il papà. E si abboffa come un porco. Ma, Vabbè, i bambini. Quello c'ha una bocca. Ma tesoro. Mangia a livello industriale. Bambini scherzano, bambini scherzano. Bambini scherzano, sono sempre alla gamba. Allora, tesoro Uccio. Sono bambini. La voce dell'innocenza. Dai, quando no, si vince? Quando si vince? Come? Quando si vince? Un mini miliardo. E a chi lo vuoi dare il mini miliardo? A te. Ma a te, no. Ti saluto, ciao, non mi interessa. No, ma ti volevo fare la domanda. Aumenti il montepremio. Ti facciamo la domanda. Non possiamo. Se potessimo facessimo, non potessimo. Va bene, fammi la domanda. Che busta vuoi? Che numero vuoi? La 1, la 2, la 3, tesoruccio? Questo non lo fai. No, io senza buste. No, qua c'è la domanda. Questo io le do le buste. Non lo fai fesso. Che numero vuoi? Non lo fai fesso. Dammele tre. Tutte e tre. Tutte e tre. Numero 3. Ecco qua, busta numero 3. Aspetta, scusa, non ti seccare all'opposto. Non è che ti secchi. Che brutto colore c'ha la busta. È tremendo, Facci il freddo. Qual è la domanda? Allora, la domanda è questa. Tra questi due oggetti, qual è il secchio? E qual è la paletta? Senti, fai una cosa. Tu il secchio lo dai a quel birbancione che sta sopra. La paletta te la pigli tu e verrà dato poco al mare. Ciao. Grazie. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. I colori dell'anima su Radio Alma vi presenta tutta la musica italiana live a Bruxelles. Paolo Loveri Quartet, con Paolo Loveri alla chitarra, Marco Sannini alla tromba, Tonino De Sensi al basso e Bruno Castellucci alla batteria, suoneranno per voi nel mese di giugno, il 6 al Music Village alle 20.30, il 7 al Blue Flamingo Jazz Festival alle 20.30 a Molenbeek, brani originali di Loveri e Sannini e standard jazz. Paolo Loveri, Marco Sannini, Tonino De Sensi, Bruno Castellucci, il 6 giugno e il 7 giugno a Bruxelles. Tutta la musica italiana live a Bruxelles. E Filomena, i Riso Patate and Folk suoneranno al ristorante Belli e Buoni il 27 giugno alle 19, Avenue de Tervuren 36. Musica italiana folk al 100% con uno spettacolo assicurato, i Riso Patate and Folk, il 27 giugno alle 19 al ristorante Belli e Buoni. Faccia la festa al lupo al tiro. Colori dell'anima, tutta la musica italiana live a Bruxelles. Colori dell'anima. Ed eccoci qua con i colori dell'anima. Abbiamo ascoltato il mitico Nino Frassica. Chi era? Era Renzo Arbore, sì, il famoso Pierpaolo che telefonava sempre. Pierpaolo. Pierpaolino. Vabbè, fa morire quando gli dice: le voglio tutte e tre, le buste, le voglio tutte e tre. Fantastico. Sentite, ma io la... Cos'è? Cos'è questo suono di sottofondo? Eh beh. Cos'è? Qua ragazzi, qua brividi. Qua ci sono emozioni. Ragazzi, il pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, anche la mattina, quando si bigiava a scuola, ragazzi, questa è una sigla che io impazzivo. Io avrei bigiato a scuola solo per vedere le puntate di MacGyver. Cioè, era il mio mito da bambino. Cioè, la gente aveva miti magari di ogni sorta. Io guardavo MacGyver, da grande volevo fare MacGyver, ecco. No, concordo con te, Giampaolo. MacGyver era veramente unico, l'unico che riusciva a fare l'incredibile. Poi impressionante, poi da lì sono nate anche barzellette. Dobbiamo parlare di quando rimaneva chiuso e negli ambienti più impensabili, cioè aveva solo una patata, una cipolla e un filo, ci costruiva la bomba. Sì, la bomba atomica che faceva con la patata e la cipolla. Secondo me era un successore di Einstein, una cosa del genere. Ma era un genio, e poi trovava sempre queste gli oggetti più improbabili nel momento, esattamente il momento in cui lui ne aveva bisogno, eccolo lì. Era incredibile MacGyver, ragazzi. Io no. Mi ricordo, ecco, me ne vanto anche, che quando ero piccolina facevo gli scout e mi hanno chiamato qualche volta MacGyver perché è un campo tu, scout. Rossella, quindi Rossella, sì. Scopriamo, attenzione, Rossella ci dice Rossella, realtà. Per me sei per esempio la MacGyver, poi ci spiegherai, ma per me sei, perché lei è la MacGyver della cucina, con pochi ingredienti lei ti fa una cosa incredibile, ti fa girare la testa, ti avanza fino a Ferragosto praticamente. Sì. Ma era per questo che ti chiamavano MacGyver, no, degli scout? No, ma in realtà era comunque collegato alla cucina, è vero pure questo, perché praticamente a due campi scout sono riuscita a fare il caffè sul fornello, che non c'era il fornello, perché praticamente chi di voi ha fatto gli scout sa che quando si fanno i campi estivi il fuoco si fa, proprio si fa il buco, si fa il fuoco e si appoggiano delle aste in metallo dove appoggi poi la pentola. E quindi riuscimmo attraverso un marchingegno a fare un piccolo fornelletto per fare il caffè. Attenzione. E insieme al caffè, perché il caffè accompagnava l'elemento principale, che era una torta fatta in un bosco. Cioè riuscimmo a fare un fornello da campo utilizzando le scatole dei panettoni, sai quelle di latta che la colomba, i panettoni spesso sono in queste che sta fuori la scatola di latta proprio, sì, rotonda, esatto. Poi dentro trovi il panettone, benissimo, quella, perché quella ha una particolarità, si chiude molto bene, proprio come una pentola ermetica, quindi quella la forammo e quindi facciamo passare all'interno queste le aste di ferro e poi la appoggiamo sul fuoco tentando di tenere la temperatura del fuoco costante. Ecco, lì se ci fosse stato un MacGyver ci avrebbe pure fatto il termostato. Bambini però, che ci state ascoltando, non riproducete l'esperimento di Rossella, però è andata a buon fine. Sì, però sempre dentro un contesto, ecco, cioè, eravamo agli scout, era tutto sotto controllo, alberi ben lontani dal fuoco, tende lontane dal fuoco, è andata a buon fine. Infatti abbiamo anche vinto la competizione culinaria, quindi ragazzi, se andate in campeggio potete anche farvi una torta. Yuhu! E se avete fame chiamate Rossella che vi prepara di tutto, anche se non avete gli ingredienti. Questa mi piaceva tantissimo, questo mi piaceva proprio tanto. Ragazzi, Rossella, ti ricordi questa sigla? Cosa sì, vuol mi dire? Ricordo mio fratello che. È tuo fratello? Che non si spiccicava dalla televisione, ecco. E questa è proprio la sigla di Supercar. È la sigla di Supercar. Che tutti voi ricorderete, era questa macchina nera fantastica, che praticamente si regolava da sola, andava in giro da solo. C'era lui, il protagonista, il mitico David Hasselhoff, che poi negli anni 90 tutti hanno conosciuto come mito di Baywatch, ma in realtà per me era ed è sempre rimasto il personaggio di Supercar. E lui si trovava in queste situazioni più disparate, lì quando era in difficoltà, a un certo punto Kit, vieni a prendermi, tu devi partire questo missile nero con questa lucetta rossa che continuava a muoversi lì sul cofano della macchina, e la macchina che partiva faceva tutti quei pulsantini che si schiacciavano, il turbo, a me piaceva il turbo boost, ragazzi. Wow. Ma chi non ha sognato da piccolo poi di avere una macchina da grande che avesse il turbo boost, che schiacci tu il pulsante rosso e la macchina ti decolla e ti sorpassa qualunque ostacolo, ma proprio qualunque ostacolo. Eh sì, in realtà lo guardava mio fratello, però io sbirciavo, perché insomma David faceva la sua figura su quella macchina nera. E qua, ragazzi, con questi telefilm c'è, cioè, proprio si apre una voragine, è come il vaso di Pandora, perché a me adesso viene in mente veramente un po' di tutto. I telefilm ogni tanto per me sono stati veramente fantastici. Sì. Ricordo Magnum P.I. Magnum P.I. con le sue storie, con le sue investigazioni, la sua Ferrari, le macchine erano fondamentali, con la sua Ferrari decappottabile che andava in giro, non so se fosse girato in Florida da qualche parte, in California. Sì, California. Eccolo, perché Angelo stasera ci regala queste chicche meravigliose. Sono emozionato. Rossella, tu l'hai guardato qualche volta Magnum P.I.? Sì, come no, mi piaceva anche a me quello. Però dai, diciamo che noi ragazzette ci piacevano altri telefilm, nel senso, no? Ad esempio, sì, mi ricordo la Tata. La Tata era un telefilm fantastico, ragazzi. Che era quella della ragazza, la ragazza ciociara. Esatto, Francesca, lei era di Frosinone. E adesso attenzione, perché vi svelo una cosa incredibile. Attenzione, attenzione. Rossella, tu stasera sei proprio un vulcano di sorprese. Perché io, per qualche strano motivo, avevo associato Frosinone con la Germania. E quindi, secondo me... Come con la Germania? La tata era tedesco. Tedesca. Tedesca. Ecco. Quindi, se ci sono Elisabetta e Maria Angiolellini, fatevi sentire e quindi raccontate questa esperienza di quando avete scoperto il mio... Eh no, perché adesso siamo curiosi. Com'è possibile che la tata potesse essere tedesca? Guarda, me lo chiedo tutt'oggi anch'io. Per quale cavolo di motivo una riccia con i capelli neri che cucinava, che mangiava, che era una bella donna avvenente, ma com'è che poteva essere tedesca? Ma che ne so. Ma insomma... Però era un telefilm fantastico. O ancora Super Vicky, Super la bambina robottino. Che magia Super Vicky, ma che. Cioè, io aveva sotto il grembiulino tutti i macchingegni, no? Sì, con tutte le sue cosine. Ma poi la cosa che a me faceva impazzire di Super Vicky è che a un certo punto prendeva i libri, 200 pagine, 300 pagine, li sfogliava in un nanosecondo e li aveva già imparati. Era una cosa veramente terribile. Sì. E chi di noi non è voluto essere. Ma sì, Super Vicky, soprattutto all'università, no? Mare, profumo di mare. Sì, e questo che stiamo ascoltando invece di Little Tony, che ci ha regalato sta sigla meravigliosa. Ma ve la lascio ascoltare. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Colori dell'anima. Questa che abbiamo sentito adesso era la bellissima sigla di Love Boat. Chi non ricorda questo telefilm fantastico? È un telefilm americano che veramente infinito, non finiva mai. È andato in onda negli Stati Uniti dal 77 all'86, mentre invece in Italia è stato portato nel 1980. Pensate, 9 stagioni e 249 episodi. E io non Mizzica! Devo dire, Mizzica! Non ero un grande appassionato di Love Boat, però non so perché quando sento questa canzone e quando magari mi capita di rivedere in TV, sai, come fanno quei programmi lì delle meteore, delle cose robe degli anni passati, me Love Boat per me è un simbolo degli anni 80, anche se non lo guardavo. Però veramente è stato qualcosa di molto simbolico. Anche i nostri telespettatori che ci seguono ci danno i loro pareri. Anche Tiziana Genovese dice: io adoro Love Boat, era un telefilm che mi piaceva tanto. E ancora abbiamo qualche commento sulla pagina Facebook. Leggiamo Ricordiamo i numeri. Ricordiamo anche la pagina. La pagina www.facebook.angelo e Carla on air. E ancora il numero di telefono 02 34 52 656, oppure mandate i messaggi allo 047 1407 804. Infatti, eccoci. Il secondo messaggio di Rosy, che ci scrive: che meraviglia per me gli anni 80, 82, 83 e 87, grazie a Dio che mi ha donato una meravigliosa famiglia, il mio cuore è colmo d'amore, vi abbraccio tutti, siete formidabili. Grazie Rosy, a voi in studio. Ciao Rosy. Ciao Rosy. E i nostri ascoltatori sono sempre così molto, molto romantici nei loro messaggi spesso, eh? È vero. Sì, sono calorosi. E ma d'altronde col tema che abbiamo tirato fuori, Love Boat, che era pieno di storie d'amore che passavano su questa barca, su questa nave, storie d'affari. E attenzione, perché questa musica invece ci porta su mondi un po' più caraibici. E secondo me è arrivato il momento di ascoltare il nostro caro maestro, il nostro maestro dell'arte con la sua fantastica rubrica che tutti voi stanno aspettando ormai da un mese, e che prendi l'arte e fanne parte. Buonasera maestro, ci sente? Buonasera a tutti cari allievi. Buonasera maestro. Buonasera egregimo. Egregimo. Come non ho potuto seguire la vostra trasmissione, ma sono sicuro. Come no? Purtroppo ragazzi, c'era una bambina che dovevo vedere. Maestro. Maestro ci sorprende. Lei semina il seme? Una nata. appena nata, sono dovuto andare all'ospedale a visitare. Ma era una sua adepta? Maestro, non sapevamo che lei tra le sue innumerevoli qualità fosse anche medico. Ci stupisce sempre il maestro. Sì, sì, io anche curo. ragazzi, qua io stasera volete vi parlo di una mostra che c'è adesso a Bruxelles. Mostra su Kandinsky. Vai, un minuto, tutto per te. Vai, noi anche chiudiamo i microfoni. Guarda. Vai, uno, due, tre, via. Allora, innanzitutto è disponibile fino al 30 giugno, ragazzi. Se volete le notizie positive o negative? Vai, tutte e due. Positive, vabbè. Negative è che, ragazzi, è cara. Madonna, quanto costa. Durante il weekend sono 17-18 euro, un po' caruccio. Però, vabbè, bisogna andare a vederla lo stesso. E cosa c'è di interessante? Lui riassume le tradizioni della Russia, le fiabe, i miti, le leggende, e dall'altra parte con la sperimentazione figurativa originale che è l'arte astratta, lui è il padre dell'arte astratta, come sapete. Quindi c'è in certo senso questo tentativo di combinare tradizione e nuovo linguaggio. No? Secondo punto, che secondo me è interessante, soprattutto per i musicisti, il rapporto tra arte e musica. Lui vedeva nel giallo una tromba, nel blu un violoncello, ma al di là di questo, ciascun colore rappresenta uno strumento, che può essere anche una banalità in un certo senso, c'è una cosa più interessante, che secondo me è che il colore è un mezzo per esercitare un influsso sull'anima, quindi i colori suscitano sensazioni, emozioni, ed ecco qua che si entra nel mondo dell'arte come psicologia. Io penso che questi sono i punti più interessanti per vedere e ascoltare questa musica allo stesso tempo. Musica, colore, arte, astratto, tutto qua. Se volete andare, ragazzi, fino al 30 giugno al Museo delle Belle Arti di Bruxelles. Benissimo, benissimo maestro, quindi fino al 30 giugno, abbiamo capito bene? Già, avete due mesetti ancora. Fantastico, fantastico. Senti, maestro, mi scusi, senta maestro, prego. Ma ci omaggia con qualche immagine sulla nostra pagina Facebook stasera? Ne ho messa una questa mattina, ma com'è? Io non ho avuto il tempo di guardarla. Maestro, non mi dica che è la solita donna nuda, però, che... No, questa volta no. Questa volta ci sorprende veramente, allora. È un uomo nudo questa volta. No! Dov'è maestro? Mi spieghi dov'è subito? Abbiamo la nostra assistente che adesso è lì, ha abbandonato la trasmissione, ha preso il computer e è andata via. Lì è benissimo maestro, noi ci risentiamo lunedì 27 ragazzi. Maggio. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Anche a voi. Arrivederla maestro, è sempre un piacere. Quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. I colori dell'anima su Radio Alma vi presenta tutta la musica italiana live a Bruxelles. Paolo Loveri Quartet, con Paolo Loveri alla chitarra, Marco Sannini alla tromba, Tonino De Sensi al basso e Bruno Castellucci alla batteria, suoneranno per voi nel mese di giugno, il 6 al Music Village alle 20.30, il 7 al Blue Flamingo Jazz Festival alle 20.30 a Molenbeek, brani originali di Loveri e Sannini e standard jazz. Paolo Loveri, Marco Sannini, Tonino De Sensi, Bruno Castellucci, il 6 giugno e il 7 giugno a Bruxelles. Tutta la musica italiana live a Bruxelles. E Filomena, i Riso Patate and Folk suoneranno al ristorante Belli e Buoni il 27 giugno alle 19, Avenue de Tervuren 36. Musica italiana folk al 100% con uno spettacolo assicurato, i Riso Patate and Folk, il 27 giugno alle 19 al ristorante Belli e Buoni. Faccia la festa al lupo al tiro. colori dell'anima, tutta la musica italiana live a Bruxelles. Colori dell'anima. Ed eccoci di nuovo in studio, quindi ragazzi, questi anni 80, a me in realtà mi viene da pensare un po' appunto quando avevo i miei 13-14 anni. Chissà se è successo la stessa cosa, ma sicuramente, quindi si usciva da scuola, magari andavi a mangiare dalla nonna e dopo la solita soap opera e voilà, arrivava lei. Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace molto, ma pure la Rai, non è la Rai, ragazzi, c'è la sempre blu, non piove quasi mai, com'era buona quella, non è la Rai, com'era buona. Qua si dice che era un programma femminile, però in realtà lo guardavano anche i maschietti. Io lo guardavo! Eccolo! Beh, ma lo guardavano anche i maschietti, ma chissà se anche loro avevano le figurine, il diario. Ah no, le figurine no. Allora, state proprio indietro, mi dispiace. A saperlo ne avrei voluto avere. Non lo sapevo che ci fossero le figurine. Altrimenti, sì. Come no, c'erano le figurine. Poi molti argomenti che in realtà venivano discussi, diciamo, non nella Rai, erano gli stessi che si ritrovavano nel bellissimo Cioè. Dai ragazze, chi di voi non si ricorda il Cioè? Il cioè. Fatevi sentire. Questa rivista odiosa che tutte le mie compagne di classe portavano a scuola. Adesso guardare con questo. L'ho fulminato, odioso, non mi sembra proprio. Mi ha fulminato proprio con lo sguardo. Sì. Però è vero, si stava in classe, arrivavano sotto i banchi, si vedevano circolare questi Cioè, queste cose che si attaccavano sulle unghie. Era la roba scoperta, per i capelli. Sì. C'era un po' di tutto, diciamo, era un verità, era proprio appunto come un po' come lo schema di Non è la Rai. Quindi chi di voi non si ricorda questo programma che è andato in onda dal 91 al 95 con 4 edizioni ben diverse, con appunto dei presentatori anche diversi. Nel 91 con l'Enrica Bonaccorti, e poi l'anno dopo con Paolo Bonolis, e ovviamente le ultime due edizioni del programma con la famosissima Ambra Angiolini, la quale ragazza aveva 16 anni quando ha iniziato a fare la presentatrice Non è la Rai. Mi ricordo che era proprio piccola. Sì, era veramente molto piccola. E quindi sì, quindi era un po' di intrattenimento, e ricordiamo che era quotidiano il programma dalle 14 e mezza in poi, ed era pure in diretta, e c'erano tutte queste belle sigle, questa che noi abbiamo ascoltato è quella più famosa, però ce ne sono anche delle altre, perché Non è la Rai, ragazzi, è stato anche un programma molto criticato. Ecco, c'erano queste ragazze che stavano lì molto giovani, quindi da 14 ai 17 anni. E sì, che c'è stato anche un po' di chiacchiera su questo programma. Eh sì, sono state molte critiche. Che ha contribuito, devo dire, però secondo me, a farlo diventare famoso, a farlo rimanere un po' un programma. Sicuramente, concordo con te. Addirittura, sapete una cosa, la canzone di Vasco, Ehi tu delusa, quella canzone lì, sento che chi troppo usa, c'ho anche la voce oggi. Infatti vi leggo un messaggio che è arrivato fresco. Che grande emozione che ho provato grazie a voi conduttori della famosissima ed internazionale Radio Alma Colori dell'Anima. Grazie per averci levato di farmi ripercorrere gli anni 80, il mio grande innamoramento, il successivo grande passo del matrimonio, la grande gioia della nascita di due meravigliosi bambini, la mia prima bella la macchina diesel, grande emozione ripercorrere per me questi famosi indimenticabili anni. Ciao, un bacione, ragazzi. Siculo per tutti voi, Carmel. Ciao Carmel, grande Carmel. La prima macchina diesel, ragazzi, è che gli anni 80 ci hanno portato anche le macchine diesel. Questo va detto, ragazzi. Su Facebook sta arrivando di tutto, ringraziamo quelli che si stanno scrivendo, perché guarda, i telefilm ci ricordano Arnold era bellissimo, era quel ragazzino di colore che stava lì con la famigliola, con i cugini, che aveva sempre le soluzioni per tutto. Sì, ci veniva sempre un'idea da Arnold, ricordo, era proprio bello quel telefilm. E poi Tiziana Genovese ci ricorda i Robinson, con il video Bill Cosby. Oh yeah! La sigla di Arnold, ma continuate bellissima a parlare. E poi naturalmente poi se guarda ci dicono di tutto, a me piaceva Love Boat, E l'accostamento, ho apprezzato tantissimo questo questo Ale che si scrive Alessio, ho apprezzato tantissimo l'accostamento Michael Jackson e Raffaella Carrà. Yeah. Due monumenti del ballo, devo dire. Esatto. Poi ci dice anche Alessio, sempre si scrive: a San Severo centinaia e centinaia di disperati pompavano le 127 con i led rossi uguali a Kit. Ragazzi, grazie per la confessione, Alessio. Bellissimo. Gli anni 80, ragazzi, veramente ad alcuni hanno causato seri problemi. Anche con tutte queste storie. Ma gli anni 80, oltre a viverli attraverso programmi televisivi, musica e non so, canzoni, gruppi, io ricordo tanti oggetti bellissimi, tanti giochi, tante, ecco, questa sì. Questo è il 90° minuto, ragazzi, anche il 90° minuto uscì fuori negli anni 80 ed è diventato un must che è durato fino a qualche anno fa. E la domenica dopo le partite, Rossella, lo so che tu magari non guardavi le partite del pallone, però per noi ragazzini che aspettavamo i risultati delle partite, la sigla del 90° minuto era qualcosa di aspettato. Certo, la domenica era 90° minuto. È chiaro, ragazzi. E poi passavano tutte le notizie, i gol, i marcatori, facevano vedere chi aveva segnato. Tutti i clou. Ed era in quel momento che vi scambiavate le figurine panini dei calciatori o è venuto dopo? No, più tardi, perché a quell'ora si guardava solo 90° minuto. Ah, ecco, quindi si stava attenti, concentravate. Sì, sì, e poi ci si sfotteva tra le squadre. Benissimo, ma non solo, io ricordo, Rossella, non so se tu ricordi, negli anni 80... Una cosa fantastica. Cosa, che cosa? Era questo oggetto che tutti i bambini avevano, che i genitori odiavano, le crystal ball. Oh, mamma, che meraviglia! Con crystal ball ci puoi giocare? Crystal ball! Bellissimo. Che i genitori meraviglia. Odiavano questa cosa perché si appiccicava dappertutto, era sì, veramente una cosa terribile. Sì, perché aveva poi questi colori molto forti, c'era giallo, rosso, blu intenso, e facevi queste bolle enormi che erano proprio impiccicose, proprio ti veniva voglia di metterti a impastare con le mani, di fare proprio le cose, sai, quelle... Poi non so voi, mia madre era un po' fissata, a parte il discorso del, a parte il problema di sporcare, lei temeva che io potessi, tossico. Esatto, potessi mangiare. Lo potessi ingerire anche l'odore stesso. Dai, chi non si ricorda l'odore intenso? Fortissimo. Su gioca un po' con Crystal Ball. Eccola. Poi Crystal Ball, se vuoi, si attacca. Crystal Ball. Non rompe niente, poi lo non è vero, macchiava. Smascherato il Crystal sì. Ball. Invece, non so se tu ti ricordi, anche negli anni 80 è stato il periodo in cui sono usciti tutti quei gelati tipici che si trovavano. La stacchetta, quella di ghiaccio, il polaretti. I mitici polaretti. Perché i ghiaccioli che si compravano al bar, al supermercato, il lemonissimo, il fior di fragola. Oh, il fior di fragola! Emilio oggi porta la sua frutta, a Polaretti la mia ce la porta proprio tutta. Ragazzi, che momenti indimenticabili, quando mettevi questo polaretto alla Coca-Cola nel freezer. Nei polaretti frutti. E poi non scivoliamo nella pubblicità. Ragazzi, noi ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata, di questa carrellata degli anni 80. Però sappiamo che vi abbiamo dato solo veramente un piccolo spicchio di quello che è stato questo decennio fantastico e fondamentale, un po' per tutte le cose. E vi ricordiamo sin da ora che I Colori dell'Anima tornerà fra un mese circa, l'ultimo lunedì del mese, come sempre, il 27 maggio. A che ora, Rossella? Alle ore 21 in punto. Come sempre. E allora vogliamo un po' salutare gli amici che ci hanno scritto su Facebook oggi, che sono stati veramente, sì, veramente tanti. Abbiamo avuto un sacco di telespettatori, come al solito. Grazie a tutti, fedelissimi. Allora, salutiamo Tiziana e soprattutto tutti i cugini da Catania, che saranno 8, 9, 10, tanti cugini. Ciao a tutti, baciamo le mani a tutti. Salutiamo Alessio, salutiamo Michelangelo, salutiamo Antonella. Ragazzi, grazie per ascoltarci ed essere sempre con noi. Bellissima puntata, non è la Rai, io lo seguivo sempre, e il cioè che ricordi, non do di chi io, ma gli anni 80, ma gli anni 80 sono meravigliosi perché sono nata io, scherzo, un bacio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Antonella. Ciao Antonella. Ciao, Anto. Ciao. Mentre vedo, attenzione ragazzi, qua sta arrivando di tutto su Facebook, ci ricordano veramente di tutto. Gli appassionati di informatica negli anni 80 hanno scoperto i primi personal computer, ma soprattutto negli anni 80 è cominciata a diventare famosa la celebre Apple con tutti i suoi computer. Il primo Macintosh, praticamente è uscito nel 1985, il primo Macintosh famoso. Nel 1985 poi uno è uscito scatolone. Di tutto. Sono usciti videogiochi, il Nintendo, Super Mario Bros. E veramente di tutto. E i guarda, colori dell'anima, che colore diamo a questa serata? Ah, bella bella domanda. Ricordiamoci ragazzi, dare il colore ragazzi, io mi sto perdendo, qua sta arrivando di tutto, dai. Mi continuano a dire anche altri oggetti, però diamo un colore a questa puntata. Io direi rosso. Rosso. Perché gli anni 80 sono stati degli anni, dai, un po' di fuoco, diciamolo così, un po' anni di energia, di scoperte, un po' di trasgressione, c'è stato un po' di tutto. Io darei un bel rosso a questa sera. E allora, il colore di questa puntata è rosso. E noi vi diamo appuntamento fra un mesetto. Mentre guarda, continuano a scriverci di tutto, le sorprese del mulino bianco. Ma chi le sorprese del mulino bianco, chi ci aveva pensato? Si collezionavano quelle, quelle proprio hanno un valore. Poi se li scambiavi con queste scatolette piccoline di cartone che tu le aprivi e c'era vediamo dentro se sì, perché all'inizio c'erano le scatolette, sì. Non è come adesso poi che c'erano lì, cioè, al posto di una merandina c'era proprio la scatoletta, c'era proprio la scatoletta dentro. Radio ascoltatori, vediamo se in 20 secondi qualcuno scrive su Facebook qual è la sigla di questo brano che stiamo passando. Lanciamo il contest così, eh. Non ce la fanno, per me non ce la fanno. Bene, ricordiamo ancora le nostre pagine Facebook. www.facebook.com Angelo e Carla On Air. E ancora il numero di telefono 02 34 526 56, o per chi volesse mandare l'ultimo sms, forza 047 14 07 804. Aspettiamo di sapere se riconoscete questa sigla. Ma Angelo non ce la fa. Vediamo. Se noi lanciamo l'ultimo brano e vediamo un po' se ce la fanno. Vediamo un po' e siamo pronti a lanciare il prossimo brano.